America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Drug cartels represent a clear and present danger. Clear and present danger, grande film del 94 con Harrison Ford, Jack Ryan, grande agente della CIA, il romanzo di Tom Clancy di grandissimo successo. In quel caso il clear and present danger, e cioè il pericolo chiaro e immediato, veniva dai cartelli colombiani della droga che minacciavano addirittura ambienti vicini alla presidenza degli Stati Uniti. Oggi il clear and present danger arriva dal Medio Oriente. Is this a clear and present danger? I think it is. In some ways it's more frightening than anything I think I've seen as Attorney General. Ecco, avete sentito Eric Holder, segretario della giustizia, intervistato sull'ABC da Peter Thomans, che parla di clear and present danger per americani, per europei, per quello che sta succedendo in Medio Oriente, in Siria, nel nuovo califfato dell'ISIS, dove stanno confluendo forze pericolosissime di ogni genere, stanno arrivando terroristi dallo Yemen e si sta creando una sorta di stato del terrorismo. E dice, in qualche modo questa situazione è molto più spaventosa di qualunque cosa abbia visto come procuratore generale, perché l'11 settembre è stato qualcosa di inatteso, invece in questo caso noi possiamo prevedere lo sviluppo di un attentato. Il potenziale sviluppo dipende da quello che sta accadendo in Siria, in Iraq. Mi preoccupa molto perché questi terroristi si stanno organizzando in una situazione dove non sono minacciati direttamente. Tra le preoccupazioni c'è il fatto che dallo Yemen i responsabili della costruzione della bomba che colpì una nave americana ora sono in Siria e stanno unendo le forze con le migliaia di combattenti stranieri nel paese. Holder dice è una combinazione letale, perché di fatto cosa abbiamo? Abbiamo delle persone che hanno il know-how tecnico, e queste stesse persone che in teoria dovrebbero essere volute, istruite, in realtà sono disposte a farsi esplodere, a dare la propria vita a sostegno di una causa che è diretta contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. Noi siamo davvero molto preoccupati. Il clear and present danger, il pericolo immediato, è un avvertimento per tutti. Secondo le fonti dell'intelligence che abbiamo poi raccolto ieri da altre fonti, i produttori di bombe yemenite stanno lavorando per progettare un ordigno esplosivo abbastanza piccolo da poter entrare in un cellulare o in un computer portatile. Ed è per questa ragione che abbiamo visto nei giorni scorsi la notizia di un inasprimento delle procedure di sicurezza per molti passeggeri che volano verso gli Stati Uniti, cioè devono far vedere che il telefonino funziona, è carico, si accende, e lo stesso per i computer. America 24. Ai margini della Coppa del Mondo, che ha visto il trionfo della Germania, la Merkel che ha abbracciato i giocatori, c'è stato in Brasile un incontro anche tra la Merkel e tra Vladimir Putin per parlare di Ucraina. Vi ho raccontato più volte della crisi in Ucraina, di quanto sia drammatica, ma devo dire che quella crisi, pur essendo straordinariamente preoccupante, non presenta quelle minacce che invece portano a noi, soprattutto a noi italiani che siamo esposti nel Mediterraneo, dicevo, non porta a quelle minacce in arrivo dal calderone medio orientale su ogni fronte. Abbiamo visto che pericoli ci sono in Siria e in Iraq, e c'è anche il calderone medio orientale, palestinesi, israeliani che stanno combattendo, Israele soprattutto contro Hamas. Sentiamo Netanyahu sempre ieri. Our goal is to achieve sustainable quiet and security for our people, and we're doing that by degrading Hamas and other terror capabilities. L'obiettivo di Israele, dice Netanyahu, è quello di riportare la pace e la sicurezza per la nostra gente. Lo stiamo facendo cercando di indebolire le forze di Hamas. Non sappiamo quando questo obiettivo sarà raggiunto, se lo sarà per vie diplomatiche o militari, ma è certo che Israele non si fermerà finché questo obiettivo non sarà raggiunto. Dunque il conflitto va avanti, c'è un'escalation che probabilmente è nelle carte, nonostante le pressioni internazionali per un cessate il fuoco. Infine, a Vienna è partito il negoziato sul nucleare, il 5+1. John Kerry, il segretario di Stato, ha partecipato direttamente a questi negoziati. 5+1, ricordiamolo, è per far sì che l'Iran garantisca che il suo programma nucleare sia dedicato soltanto a obiettivi civili, non a obiettivi militari. Il rischio è che l'intera regione diventi nucleare, perché se l'Iran entrerà in possesso di una bomba atomica, a quel punto la bomba atomica la vorrà anche l'Arabia Saudita. Sono loro i due grandi punti di riferimento dei conflitti minori. Gli sciiti sono schierati e aiutati dall'Iran, i sunniti sono aiutati dall'Arabia Saudita, e dunque se dovessimo arrivare a schieramenti nucleari sia in Arabia Saudita che in Iran, beh, devo dire, le cose certamente in prospettiva non possono migliorare. Kerry e il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si incontreranno oggi a Vienna per continuare le discussioni. Qual è il rischio? Che la scadenza che era stata imposta per il 20 di luglio non sia rispettata, e dunque c'è la speranza che invece di rompere completamente venga posticipata quantomeno per tenere vivo il dialogo. Infine, una notizia curiosa, bizzarra, sempre attraverso Eric Holder, con cui ho aperto la discussione, ve lo ricordo, il capo del Dipartimento per la Giustizia americana. Bene, Holder ha concluso con il suo dipartimento un accordo di massima con Citigroup per una multa da 7 miliardi di dollari legata alla crisi del settore immobiliare e a mutui, diciamo, concessi in modo non troppo regolare. Qual è la peculiarità? Che la multa doveva essere di 12 miliardi di dollari, Citi rifiutava, si doveva andare in tribunale. A un certo punto, negli stessi giorni in cui si doveva arrivare a uno scontro finale per vedere come si sarebbero messe le cose fra Citi e il Dipartimento per la Giustizia, ricordiamo il Dipartimento per la Giustizia sta perseguendo molte banche, gli Stati Uniti hanno catturato Ahmed Abul Qattala a Bengasi. E improvvisamente il Dipartimento per la Giustizia ha dovuto dedicare tutte le sue risorse completamente a questo caso. Non c'era più possibilità, secondo Holder, di dedicare enormi risorse al caso Citigroup, e dunque alla fine si è preferito un compromesso sui 7 miliardi di dollari piuttosto che posticipare il tutto per una causa per 12 miliardi di dollari che, beh, non era chiaro come sarebbe andata a finire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Per via delle tensioni in Medio Oriente, Neil Young, il grande cantante americano, ha dovuto cancellare un concerto a Tel Aviv che doveva tenersi giovedì 17 luglio, e con grande tristezza ha detto che cancello l'unica data prevista in Israele. Spero di poter suonare presto per israeliani e palestinesi in pace. Ha detto: non credo purtroppo che questo potrà capitare molto presto, ma voglio dedicare lo stesso a lui la canzone del giorno, a Neil Young, Don't Let It Bring You Down. Non datevi per vinti. Red lights flashing through the window in the rain. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.